the shy. I'm gonna get you, said Tiger with a glare. His eyes were all shiny, but fly she was aware. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono il vostro Gianluca. Altre interviste in studio e un grande ritorno a distanza di alcuni anni. Sono ritornati infatti i Razzmatazz, che vengono a presentare il loro nuovo disco. Un saluto a voi ragazzi e ben ritrovati. Ciao Gianluca, ciao RCS, grazie di averci ospitati. Al solito partiamo con le prime due parti in cui ascolteremo e commenteremo brani rock di formazioni storiche e non del passato. In questo caso avremo un excursus nell'hard rock degli anni 70. Siamo partiti con gli Status Quo, che dal disco McCully Greasy Spoon del 1970 ci hanno fatto ascoltare il brano Shy Fly. Ma ancora lontani dai successi commerciali di fine 70, la band stava già comunque forgiando il suo sound energico. Che ne pensate? Beh, sicuramente gli Status Quo sono una delle band più amate dagli inglesi, sì, in assoluto, tanto da essere riusciti anche a scomodare parte della famiglia reale, sì, ad un infatti loro concerto. Formazione lunghissima, cambi di line-up così, sound energico. E beh, Gianluca, anche tu, mentre la stavamo ascoltando avevamo il sorriso da ebeti, scuotavamo la testa tutti quanti, quindi vuol dire che abbiamo ascoltato del rock and roll come... detentrice, tra l'altro, di tantissimi record. Sì. Adesso ricordarmeli è un po'... però detengono un sacco di record, sia di vendite che di primi posti in classifica. Comunque è un grande gruppo, un grande gruppo. Eravamo rimasti al precedente mini album. Nel frattempo ci sono state importanti evoluzioni per la band. Un riassunto degli ultimi anni tra concerti ed incisione del nuovo lavoro, oltre ad un cambio di lineup. Beh, dal demo diciamo che oltre ad aver accolto nella famiglia Razzmatazz il buon Alberto Bianchi, qui presente, al basso, purtroppo il nostro Diego Franchini ha deciso di prendere altre strade e ovviamente gli auguriamo, siamo rimasti in ottimi rapporti, gli auguriamo il massimo della fortuna con i nuovi progetti musicali. E, beh, penso che il sound sia cresciuto dal punto di vista tecnico dell'ascolto. Abbiamo ascoltato cose nuove, ci siamo forgiati molto meglio sui palchi, abbiamo suonato tanto in giro e quindi siamo arrivati a produrre il primo disco. E ora la volta di Mountain, super trio guidato dall'imponente chitarrista Leslie West tra gli anni 70 e gli anni 60, con il loro grande classico in versione live nel 1971 dal titolo Mississippi Queen. Americani per la loro propensione al rock blues pesante, i Mountain fanno parte di quella categoria di gruppi che hanno saputo alzare i volumi al massimo producendo ottima musica. Che ne pensate? Direi che a parte noi abbiamo un sano debole per i trio al plurale, comunque sono un grandissimo gruppo e diciamo che anche grazie a Razzmatazz, parlo come ultimo arrivato, ho imparato a conoscere questo genere di musica e me l'hanno fatto apprezzare. Soprattutto se consideriamo che sono ancora gruppi in attività. Sì. Molto bene. Soprattutto Leslie West. Esatto, sì, che è un personaggio, insomma, diciamo... fa ridere che a volte ci sono dei personaggi molto più pompati nello show business e questi che invece sono i veri padri fondatori vengono proprio a volte misconosciuti. Sì, è vero. Pensiamo che comunque è gente che ha 40 anni che suona. Tanto di cappello. E passione e basta, perché non può essere nient'altro che li spinge. Certo. Recentemente avete presentato il vostro nuovo disco anche live. Come sono andati questi primi concerti? Come ha reagito il vostro pubblico alle nuove canzoni? Il release party è stato molto divertente e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di suonare insieme ai miti nostri, nostrani, perché sul palco abbiamo avuto i Bullfrog, che sono nostri amici, abbiamo avuto Niccolò Carozzi di Black Mama e altri personaggi convinti del fatto che comunque un disco debba anche al territorio da dove certo. Viene fuori, non soltanto ai grandi padri del rock. Il concerto è andato benissimo e i prossimi spero che andranno ancora meglio. La gente sembra divertirsi, noi ci divertiamo come dei matti. Molto bene. Continueremo su questa strada sicuramente. Per chiudere questa parte andiamo sul classico con i Black Sabbath del 1972. Esce Black Sabbath volume 4, album che mostra l'evoluzione sonora della band di Birmingham verso territori progressivi ed anticipatori dello stoner rock odierno. Ci sentiamo Supernaut. Mm-hmm.